Il mondo porta i segni della belva. Nella selva ci sarà chi mostra i denti, chi soccomberà agli spari. Animali da macello ignari si ritrovano trofeo dei predatori, vittime di cacciatori, per i quali contano cadaveri più numerosi già ammucchiati nei safari. Ci tendiamo guardie appostati sui rami di alberi incrociati. Non c'è spazio per chi non trova lo spirito degli antenati. Fame perversa e imperversa, l'uomo che lupo per l'uomo riporta nell'aria il suo suono di nuovo. Mai domo nell'eco più bieco, nascosto dentro alla bestia. Strada o foresta, uscita nella nebbia, campo di battaglia steppa, rimarrà sempre la stessa folle stupida violenza che serpeggia e non si ferma. Io vivrò con la coscienza che la mia esistenza fa di me una preda o un predatore per sopravvivenza. Oh no no no no, oh no no. Hey. Mangio cacche, banane, bachi e liane fresche che per mangiare pesce da un lago inquinato ne esce anche alghe. Ma me la viaggio tra mosconi, orsi, bruni e zanzare. Oggi chi la vuole questa giungla devastata dal catrame. Deve imporsi, urla, auto, barche, elicotteri uccidono col DDT, piante, stormi enormi di fenicotteri. L'ha detto in grande schermo pure Barry BBC. Bush, io sono il tuo coltello, il braccio destro che porta rispetto come in un film dove i protagonisti sono i terroristi. Rambo, Cash, Tango, il Crocodile Dundee. Intanto a me la rido nella giungla, cheese, tricks, davvero indigeni. Ma intanto la mia gente sta soffrendo e sta morendo per carenza di viveri. So chi stava per restare nella giungla. Viviamo in paludi tra serpenti e canguri. Ne approfittiamo, spegniamo il cervello e poi l'accendiamo. So chi stava per restare nella giungla. Viviamo in paludi tra serpenti e canguri. Ne approfittiamo, spegniamo il cervello e poi l'accendiamo. Scorrono pagine sempre più limpida. La trama, chi brama, chi trama, chi frena e sfuma, chi ha fame, chi fama, chi nega e la schiva, la schifa. Ma se la gira e poi vola quando nascosto la fuma. Contraddizioni da leggere, accuse ne abusa, leggere differenze da prendere. Se si vuol vivere dentro una giungla fra bestie carnivore, c'è chi scalcia e chi scappa, chi dorme a letto e chi cuccia, chi si rintana e chi caccia, chi si ricarica o chi si reprime. Antiche memorie dall'Atlante, narrate da un elefante. Zulu, beduini e barberi, berberi di razze, suona ed estinti nella savana. Un'era che c'era e che è andata a morire. Questo mondo non è un orto botanico, nel mio organico c'è del selvatico. Noi carico di bestie con richieste di adattabilità, dalle feste dell'alta società, questa vita da giungla. Caro macaco, con la struttura di un invertebrato, sei rimasto a prato, ma poi qualcuno lo sei diventato. Io lo sarò sempre, tu cambi pelle come un serpente. Io con un macete mi faccio largo tra la felce. La fiducia non è merce di scambio, tranquillo non ho pianto. Come vedi canto, tu ballati sto jungle con il Rambo che è accanto. Comprati in saldo un nuovo compagno, in the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. So chi spava per restare nella giungla. Viviamo in paludi tra serpenti e canguri. Ne approfittiamo, spegniamo il cervello e poi l'accendiamo. So chi spava per restare nella giungla. Viviamo in paludi tra serpenti e canguri. Ne approfittiamo, spegniamo il cervello e poi l'accendiamo. Oh no no no no, oh no no. Hey, hey, hey, hey, hey.